francamente ancora non ce l'ho. Spero di avercela il prima possibile, perché vuol dire che a quel punto magari sarò in un buon, diciamo, buona strada. Ecco. Certo, sì. Certo. Grazie mille, Alfredo Bini. Lo ricordo il sito alfredobini.com, fotogiornalista indipendente adesso di base a New York. In bocca al lupo, grandissima a questo punto, per questo tuo lavoro. Buona giornata e buon lavoro, Alfredo. Grazie. Grazie a voi. Adesso andiamo a vedere che situazione c'è sulle strade italiane e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre il meglio di Nessun Luogo è Lontano, i temi più interessanti toccati nella settimana appena trascorsa. Un tema che ha riscosso particolarmente successo e curiosità fra voi ascoltatori è stato il cinema africano. Non era Hollywood, non era Bollywood, ma nemmeno Nollywood, il famoso e celebrato cinema nigeriano, l'industria cinematografica con sede a Lagos. Era qualcosa di più piccolo, una piccola fucina creativa in uno slum, in una baraccopoli di Kampala, si chiama Wakaliwood. Insomma, dalle sonorità non avete capito esattamente la trama, andate a sbirciare appunto sulla nostra pagina Facebook, perché fra poco posteremo un po' di contributi che daranno corpo a questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, che vi racconta un'industria cinematografica emergente, è quella ugandese. La storia è particolarmente succulenta, particolarmente golosa, perché parla di uno slam, appunto Wakaliga, siamo a Kampala, capitale dell'Uganda, dove si fanno film dalle, come dire, qualità ancora in divenire, però che piacciono parecchio, sono a base di azione, c'è tanto kung fu, pare che riscuota particolare successo in generale l'action movie, in particolare poi dove ci sono calci e pugni volanti, insomma il pubblico pare apprezzare parecchio. Non è solamente una puntata di colore o di folklore, se preferite, perché il mercato cinematografico africano è un mercato che è in crescita. Basti citare un esempio di cronaca recentissima: Netflix è sbarcato in Africa proprio di recente, è un mercato in ascesa, è un mercato dai numeri contrastanti, abbiamo produzioni molto molto elevate in termini numerici e l'acquisto per esempio di singoli DVD che è estremamente estremamente economico. Allora, vi dicevo, Wakaliwood è il soprannome, così come Nollywood, dell'industria cinematografica specializzata in pellicole d'azione, che nasce qui nello slum di Wakaliga a Kampala. Abbiamo raggiunto Isaac Nabwana, che è un regista, fondatore di una casa di produzione che si chiama Ramon Film Production and Wakaliwood. E beh, questo regista è salito agli onori della cronaca con quell'estratto che vi abbiamo fatto sentire in apertura di trasmissione, Who Killed Captain Alex, e la sua prima pellicola è quella che l'ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo, risaliva al 2010. Che cosa significa essere un filmmaker in Uganda? Quali sono le sfide da affrontare? Sentite che cosa dice Isaac. Ci sono tante sfide in effetti, ma il punto fondamentale è che devi amare il cinema. Devi davvero amare quello che fai, proprio perché gli ostacoli sono tanti. L'aspetto finanziario, per esempio, che è una grande sfida comune a tutta l'industria del cinema nel mondo. Noi, invece di mettere tanti soldi, nei film mettiamo tanta passione. L'altra grande sfida è il copyright, perché noi abbiamo una legge sul diritto d'autore, ma non funziona. I nostri film vengono facilmente piratati e non c'è nessun sostegno da parte del governo o da altre autorità. Un altro problema di cui vorrei parlare è il fatto che non abbiamo donne che recitano, non abbiamo attrici. In Uganda i film sono come dei giochi per bambini. Sono film che non hanno contenuti spinti dal punto di vista sessuale, ma sono molto violenti. Noi non ci baciamo neanche per strada, ma nei film occidentali ci sono molte scene del genere. Noi dobbiamo fare film in linea con la nostra cultura. Ci sono dettagli come questi a cui dobbiamo pensare quando costruiamo un film, perché le nostre pellicole saranno viste da bambini ma anche da genitori. E anche questa è una grande sfida. Infine c'è la sfida legata alla mancanza di scuole di regia. Devi imparare a fare tutto da solo. Abbiamo bisogno di telecamere e anche i festival qui richiedono film ad alta definizione. Ma non abbiamo soldi per comprare telecamere ad alta definizione e il materiale che ci servirebbe. So they want high quality movies, but we still don't have that money to buy, you know, HD cameras. Insomma, un ambiente quasi pionieristico che però produce risultati. Pensate che su YouTube questo film che dicevamo all'inizio, Who Killed Captain Alex? Chi uccise Capitan Alex? Il primo grande lavoro, diciamo, che lo ha fatto conoscere di Isaac Nabuana, è stato visto su YouTube 2,6 milioni di volte. E sempre perché l'Africa, in particolare l'Uganda, poi sa regalare grandi paradossi, il budget per fare un film del genere si aggira attorno ai $200. Allora, Isaac Nabuana, regista, fondatore di questa casa di produzione, autore di questo film, andiamo un po' a, senza rubare il mestiere nessuno ad altre trasmissioni, in questa stessa radio, Franco D'Assisi, non ti arrabbiare, però ad Isaac abbiamo chiesto chi è il suo regista preferito. Sentite. Adesso ho tanti registi in testa, ma quando ho iniziato conoscevo solo i film. Non sapevo i nomi dei registi. Vedevo i film di Chuck Norris come President's Man e c'era Commando di Schwarzenegger. Poi, da quando ero piccolo, c'era Bud Spencer. Anche se non ho mai visto questi film, mio fratello, tornando dal cinema, mi raccontava la storia dei film di Bud Spencer e mi diceva quanto belli erano quei film. Sono cresciuto senza aver visto un solo film drammatico o una commedia. Conoscevo solo i film d'azione. Non conoscevo nessuna star di film drammatici. Avevo e conoscevo solo i film d'azione. La storia che vi stiamo raccontando quest'oggi è una storia pionieristica, una storia di una nascita, di un piccola per adesso industria cinematografica che cercherà di avere quei numeri che invece Lagos sta regalando al continente africano, la celebrata Nollywood. Produrre un film in Nigeria costa tra i 25.000 e i $70.000, questo secondo la British Broadcasting Corporation. È un mercato che vale circa $590 milioni e la produzione sfiora, sempre quella nigeriana, i 50 film alla settimana. Poi cercheremo anche di capire come viene raccontata questa Africa, cioè come gli africani raccontano le loro vite, raccontano se stessi. Ancora con Isaac Nabuana, regista, fondatore di questa casa di produzione nello slum di Kampala, della capitale ugandese, siamo nella regione dei Grandi Laghi. Qual è la caratteristica principale che un filmmaker africano come Isaac cerca negli attori? Sentite. La verità è che gli attori vengono qui da me, mi chiamano e io li richiamo. Quello che cerco prima di ogni altra cosa è la passione. Ho bisogno di personaggi che abbiano questa caratteristica, perché senza la passione non si può essere dei buoni attori. Io la vedo così, devono essere appassionati e devono amare ciò che facciamo. Questo è ciò su cui mi baso, il loro amore per i progetti che facciamo. E sentite invece il futuro di Wakaliwood. Che cosa Isaac Nabuana auspica per sé come regista e per la sua casa di produzione? Il mio sogno potrebbe essere riuscire ad avere almeno uno di questi grandi attori in Uganda. Se potesse venire Schwarzenegger, ci permetterebbe di avere molta attenzione. Sarebbe grandioso. Mi immagino anche delle bellissime scene con Chuck Norris nella foresta. Chuck Norris nella foresta ugandese. Adesso facciamo saltare sulla sedia la prossima ospita a cui do il mio benvenuto, il ben trovata al Nessun Luogo Lontano. È Alessandra Speciale, co-direttrice artistica del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, presidentessa del Milano Film Network. Speciale, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, che ne dice, come lo vede un film con Chuck Norris nella impenetrabile foresta di Bwindi nel sud dell'Uganda? Ma lo vedo un film di grande avventura. Una bella provocazione. Vabbè, siamo un po' dei provocatori. Perché diciamo questo? Perché Alessandra Speciale lavora su una cinematografia diversa. Qua vi stiamo raccontando dei film, poi lo scopriremo col secondo ospite da Kampala, i cui DVD costano 3.500 scellini ugandesi. Stiamo parlando di un DVD in vendita a un dollaro, la cui produzione costa 200-300 dollari. Gli effetti speciali fanno sorridere, però hanno un valore, nel senso che è cinema africano prodotto dagli africani per gli africani stessi. Alessandra Speciale lavora su una cinematografia, diciamo, d'autore, differente, quella che alcuni autori appunto africani magari portano ai festival europei. Abbiamo selezionato... Magari anche... Prego. No, sì. Dico, magari anche non solo una cinematografia d'autore, ma una cinematografia che può ambire a una distribuzione internazionale, ecco, che non rimanga un prodotto solo per un pubblico locale. Certo, e diciamo che Chuck Norris nella foresta di Bwindi potrebbe essere un pochettino chiusa come storia. Ecco. Allora, facciamo sentire un estratto di Nekti Youth di Sibs Sibogwe Lamer. È un film sudafricano, drammatico, bianco e nero, storia di amore, amicizia, sballo, l'alta borghesia di Johannesburg. È un esempio di come l'Africa racconta se stessa. Sentiamo. Il frammento sonoro che avete appena ascoltato è un pezzetto di un film che forse va a smontare un po' di stereotipi che abbiamo in testa sull'Africa. Ne parliamo subito dopo la pausa con Alessandra Speciale. State con noi. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre Nessun Luogo Lontano. Beh, quest'oggi facciamo un po' di cinema, via. Alessandra Speciale, co-direttrice del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina e presidentessa del film del Milano Film Network. Abbiamo fatto sentire ai nostri ascoltatori, Alessandra, un estratto di Nekti Youth, questo film sudafricano, e stavo dicendo prima della pausa che forse in qualche modo va a smontare degli stereotipi, delle idee precostituite che abbiamo sul continente nero. Qua, insomma, si cominciano a raccontare sfumature che sono certamente più integranti. Alessandra Speciale. In effetti anche questo è il cinema che più ci interessa, ed è un po' la tendenza di tutto il cinema indipendente, cinema di qualità, d'autore africano oggi, è quello proprio di ribaltare un po' questa immagine dell'Africa che viene veicolata dai media e anche dal resto della cinematografia del mondo quando si parla di Africa. E quindi è chiaro che poi le voci più interessanti sono anche quelle che arrivano a passare oltre i confini del proprio paese e magari arrivano appunto anche a portare il film in Europa o a farlo girare in tutto il mondo, come è stato il caso di Sibs. Sibs è un caso incredibile, rarissimo, nel senso che è un ragazzo sudafricano che viene da una famiglia di media borghesia del Sudafrica, lui è nero, e a soli 23 anni presenta alcune immagini, una ventina di montato di immagini a Venezia, alla nostra mostra del cinema, dove appunto io da 4 anni sto lavorando, proprio su una piattaforma per film in post-produzione che vengono dall'Africa per aiutare poi questi film a essere completati. Sì. Arrivano questi 20 minuti, per noi sono una cosa stravolgente, lui ha solo 23 anni, poi ovviamente prendiamo il film, poi il film fa tutta una sua strada, trova un produttore, riesce a essere prodotto e va a Berlino, e da Berlino poi gira tutti i festival, dal Tribeca fino, cioè, del mondo, fino sì. a essere poi riconosciuto il miglior film sudafricano dell'anno. Sì. Ecco, e questo è un altro tipo di cinema che viene dall'Africa, è un cinema d'autore, ma che non vuol dire un cinema impegnato che non possa essere distribuito, ma vuol dire semplicemente un cinema che lavora molto sul linguaggio e lavora a livello molto professionale. Sì. Purtroppo spesso... Sì, no, scusa, ti ho interrotto. No, ero io che ti interrompevo. In realtà, Alessandra Speciale, qual è la grande difficoltà dei filmmaker africani? Abbiamo sentito un caso limite, no? Cioè, nello slam di Kampala non c'hanno nemmeno le telecamere in HD. La grande difficoltà anche intellettuale per un filmmaker che dice adesso ti racconto un pezzo di Africa, qual è? L'essere schiavo dello stereotipo, il pensare necessariamente un pubblico internazionale, non avere troppi riferimenti perché è un cinema comunque molto giovane. Qual è il più grande muro che devono saltare? Ma il più grande muro che devono saltare, secondo me, è quello comunque di avere una formazione adeguata, perché sono rarissime le scuole di cinema e sono rare anche le persone che possono permetterselo. Certo. Quindi, se vogliamo, il cinema comunque a un certo livello è ancora qualcosa di elitario. Poi ci sono dei casi che fanno eccezione, no? Dei talenti, sì. Capito? Come in tutte le arti. Certo. E questi riescono a bucare e ad arrivare lo stesso, però è molto difficile. Io penso che questi fenomeni, come questo che stavate guardando, di cui state parlando a Kampala, sì. E anche che poi è un fenomeno che arriva dal grande fenomeno in Hollywood, no? Sì. Quello della Nigeria, sì. Per cui poi dopo tutti hanno copiato, sì. E sono importanti perché comunque, anche se per adesso continuano a fare film di bassa qualità e comunque si ispirano a action movie, a una cinematografia molto popolare, però comunque cominciano a far mettere le mani in pasta e cominciano comunque a creare quella quantità di produzione che poi magari un giorno darà anche la qualità. Certo. E accanto al racconto di fiction, quindi all'invenzione, quindi a un racconto come quello di Net Youth, c'è poi tutta la vena documentaristica africana. Qua però ci spostiamo, Alessandra Speciale, un po' più verso il Nord Africa, quindi non siamo più nell'Africa subsahariana, ma andiamo più verso la costa mediterranea. C'è una storia, Zainab Nempalanej di Kauter Ben Hanta. È un documentario in questi giorni a Locarno. È interessante perché parte da Tunisi, ma dovrebbe, chissà, finire in Canada. Sentite. Una bimba rimasta orfana del padre, la periferia di Tunisi e la neve canadese. In questo documentario, in questa storia che si dipana attraverso 5-6 anni, se non erro, diciamo che il Nord Africa, Alessandra Speciale, co-direttrice del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, presidentessa del Milan Film Network, che è con noi quest'oggi a analizzare e individuare un paio di tendenze almeno del cinema africano, che è vastissimo ovviamente, quindi non si poteva in mezz'ora raccontarlo tutto. Beh, c'è la vena documentaristica, c'è la parte documentaristica, e lì il Nord Africa certamente, soprattutto negli ultimi anni, ha regalato grandi spunti di riflessione a chi si cimentava in questo racconto. Sì, diciamo che in questo momento la produzione forse più interessante che arriva dall'Africa, in particolar modo dal Nord Africa, è proprio quella documentaristica. E anche grazie ai grandi movimenti che ci sono stati in questi ultimi anni, le rivoluzioni, che hanno comunque dato anche maggior libertà di espressione. E quindi i registi innanzitutto si sono ad esempio ispirati alla rivoluzione in modo, nei primi anni, in modo magari anche più reportagistico, più giornalistico. Adesso invece, che ormai sono passati parecchi anni, i registi cominciano a elaborare i movimenti, a elaborare le trasformazioni del loro paese in opere documentarie più raffinate, con un cosiddetto documentario di creazione, e ci raccontano spesso anche storie molto personali, quindi danno un taglio molto più originale, più vissuto a quello che è accaduto. E il caso di Kauter è proprio questo, sì. Cioè, noi seguiamo una storia apparentemente di immigrazione, sì. Tra l'altro una storia di immigrazione non per necessità ma per amore, perché la mamma, poi rimasta vedova della ragazzina, si sposa con un tunisino ormai canadese, per cui decide di fare questo grande salto, attraverso questa sua storia personale noi vediamo nello sfondo tutta la trasformazione anche però di questo paese. E questa è una tendenza che ritroviamo in tanto cinema documentario che ci arriva dal Nord Africa, ma anche da tutta l'Africa e anche dal Medio Oriente in questo momento, cioè raccontare delle storie personali che hanno anche quindi tutto un trasporto emotivo molto forte per spiegarci in modo, se vogliamo, più vero e meno stereotipato, per l'appunto, sì, quello che sta succedendo in questo momento in quel paese. Grazie, grazie mille Alessandra Speciale, anche per aver accarezzato, no, quest'altra tendenza, quest'altra forma che è il documentario, in particolare tunisino. Alessandra Speciale, co-direttrice artistica del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, presidentessa del Milano Film Network, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Non follo mana gela yaima, non follo mana gela yaima, chi ha nini sani duguche namanoya ala file. Se noi ci siamo lasciati intrigare da questa storia Wakaliwood, di questa piccola casa di produzione, cui auguriamo tutte le fortune, fra l'altro ci stanno retweetando dall'account di Nessun Luogo 24, non comprendiamo tantissimo i messaggi, ma vedo cuoricini e vedo tanta stima, quindi siamo contenti. Allora, noi ci siamo lasciati intrigare da questa storia che è super appassionante. C'è qualcuno che è letteralmente impazzito perché ha visto il trailer di Chi ha ucciso Capitan Alex e si è catapultato da una vita all'altra, da un continente all'altro. È stato Alan Salis of Manis, che è un producer e che adesso è a Kampala a produrre film, ma prima stava a New York. Sentite la storia. I tell you, that was never the plan. Te lo confesso, non l'ho mai pianificato, ma è stato molto semplice. Ho sempre lavorato nel mondo del cinema come produttore. Sono stato per 8 anni direttore di un festival di cinema e mi occupavo anche di cercare nuovi talenti. Un giorno in un bar a New York, un amico mi mostrò dal suo iPhone il trailer di Who Killed Captain Alex. Durava solo 90 secondi, era su YouTube. Tutti dissero, io no. Cioè, era divertente, pazzo, con tutti gli effetti speciali, eccetera, ma credo che io vidi che c'era qualcosa di più. E così, 2 settimane dopo, ero in Uganda. Non ho mandato mail né chiamato prima di arrivare, sono andato e basta. Sapevo che Isaac era una personalità a Kampala e che l'avrei trovato in qualche modo. Aveva una grande produzione con centinaia di persone. Quando l'ho conosciuto ero al corrente di un paio di trailer che aveva messo online, ma poi ho scoperto che aveva già girato 36 film. Oggi il numero è salito a 50. Mi sono accorto molto in fretta che stava avvenendo qualcosa di davvero importante, una sorta di movimento. All'inizio mi sono trasferito qui perché 5 anni fa era molto più difficile comunicare. Sarebbe stato difficile rimanere a New York e mantenersi in contatto con Isaac. Dovevo restare a Kampala anche solo perché c'era un problema linguistico e dovevamo imparare un linguaggio da usare per comprenderci reciprocamente. È stata una decisione ovvia rimanere qui. La crew di Isaac è cresciuta ed è diventata più famosa e io sono rimasto in Uganda anche per aiutarli a gestire la crescente popolarità. Ti dico la verità, odio il caldo e l'estate, amo la neve e l'inverno. Questo è l'ultimo posto al mondo dove i miei amici avrebbero pensato di vedermi, a parte quelli legati all'arte. Se sopporto il caldo e il sole in Uganda è semplicemente perché Isaac vive qui. Se Isaac vivesse in Sud Italia o anche in Nord Italia, sulle Alpi, sarei più che felice di raggiungerlo. Ma Isaac è qui e io mi trovo in Uganda perché è in questo luogo che lui vive. È tutto. Ed è in Uganda che io vi sto portando quest'oggi, non solo in Uganda, futura possibile capitale di una certa cinematografia africana. Siamo transitati per Lagos raccontandovi brevemente Nollywood, per poi andare su in Tunisia per raccontare un nuovo documentario. la strana coppia, potremmo dire. Alan Hofmanis, produttore newyorkese, e Isaac Nabwana, filmmaker ugandese, due paesi molto distanti, due industrie cinematografiche molto distanti. C'è qualcosa che le lega. Sentite che cosa dice il producer Alan Hofmanis alla domanda: qual è la differenza alla fine tra il cinema statunitense e quello ugandese? You know what's really funny is that Sai cosa è veramente divertente? È che invece è il contrario. Noi comunichiamo in maniera molto diretta attraverso l'arte e i film. E la verità è che sono dovuto venire qui a Kampala per trovare qualcosa che credo funzioni e su cui valga la pena investire. Mi sarebbe piaciuto restare a New York, ma qui c'è una sensibilità diversa. Credo che ciò che sta accadendo adesso in Africa, ma in particolare qui a Wakaliwood, sia come la nascita del cinema. È davvero come scoprire da capo come si fanno le cose, che sia come inventare un movimento di camera, come costruire una giraffa con scarti di metallo, o come distribuiamo i film qui. In molti modi, è come all'inizio del cinema, e anche la qualità dei film è pionieristica. Penso che ciò che stiamo facendo sia unico. Magari mi sbaglio, ma sono piuttosto sicuro che sia la prima volta nella storia che uno studente di Milano ubriaco possa andare su internet e acquistare dei DVD da uno slum ugandese e poi chattare con gli attori su Twitter. Questo è diventare fan. Non è come fare beneficenza, non è come assumere dei contadini locali che lavorano in una piantagione di caffè equo e solidale. Non è questo, ma è un modello di business ugandese che nasce in uno slum e che è in grado di comunicare con i fan sparsi in tutto il mondo. Quello che sta accadendo ora è che organizziamo anche dei raduni in tutto il mondo, in India, a Bombay e in Bolivia. Faremo delle coproduzioni. Non era nemmeno possibile 5 anni fa, perché internet qui non c'era. Insomma, un business decisamente alternativo e anche un po' pazzo, come avete sentito da questo producer newyorkese Alan Hofmanis. Qual è la dimensione di questo business? Non è facile calcolarlo, ma due cifre Alan ce le dice. Sentite. Bisogna dividere i due piani, quello locale e quello internazionale. A livello locale qui non c'è industria né distribuzione, anche se sta cambiando. Anche se Isaac ha fondato l'attività 11 anni fa, la distribuzione dei film avviene ancora porta a porta tra le baracche dello slum. Gli attori sono anche i venditori dei DVD. Mentre a noi americani piace mettere in copertina l'attore protagonista e immagini di esplosioni, eccetera, Isaac ci mette tutte le foto degli attori, così quando devono vendere il film alle persone possono dire, indicando se stessi sulla cover, e dire: ehi, guarda, ci sono io, è un film vero. Quando producono un film, Isaac e la crew ci rimettono economicamente. Vendono un film a un euro circa, ma servono 0,75 centesimi per produrlo, dall'acquisto del DVD all'elettricità. I soldi che entrano sono meno di quelli che vengono spesi per produrre il film. Non si guadagnano soldi con questi film, per ora. Si fa tutto per amore. La voce che avete sentito era di Alan Salis Hofmanis, il pazzo producer di New York che si è trasferito da 5 anni in Uganda per fare appunto il produttore nello slam di Kampala. Adesso andiamo sulle strade italiane, sentiamo il traffico e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre Nessun Luogo è Lontano. Nella settimana appena trascorsa ci siamo occupati anche di Etiopia e in particolare di una serie di proteste che hanno coinvolto due grandi regioni del paese africano. Il governo di Addis Abeba sta fronteggiando una serie di proteste senza precedenti. Ascoltiamo un attimo gli eventi rimessi in fila. Lo scorso novembre l'Etiopia è stato teatro di una serie di proteste contro il governo. Le contestazioni, espressione del forte dissenso nei confronti del presidente Malatu Testome, sono iniziate a gondar nella regione di Amara per poi diffondersi successivamente anche in Oromia. Qui, secondo Human Rights Watch, oltre 400 persone sono morte negli scontri con la polizia. Tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno soffocato nel sangue una serie di manifestazioni, uccidendo circa 100 persone, di cui 30 nella città di Bahir Dar. Era da 25 anni che non si assisteva a un'ondata di violenza simile. In Amara e Oromia vivono i due gruppi etnici più importanti del paese,